1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Dai che è venerdì, cari ascoltatori. Oggi Peter Bescapè, questa settimana come reagisci meglio? È venerdì! Lavoro anche domani. Beep! Questa è la risposta nelle cuffie, nell'interfono, come si chiama, da parte di Peter Bescapè. Non so, devo fare una petizione, devo fare un intervento qui in radio per darti un sano weekend di riposo dopo una sveglia alle 4:40. Oi! Farollo, farollo. Va bene, allora, comunque è venerdì invece per tutti coloro che vivono il venerdì come il giorno ultimo di lavoro della settimana. Settimana decisiva, come sempre, 143esima decisiva per l'abolizione delle province che si chiude con un nulla di fatto. Ai noi, la 144esima è alle porte. Dai, dobbiamo leggere i giornali, andiamo, forza! Venerdì 29 gennaio, i titoli, le aperture sono queste: il Sole 24 Ore sulle borse europee in caduta, il petrolio salva Wall Street, mentre anche Repubblica, le banche affondano la borsa, meno 3,5%. Anche il giornale, le banche crollano ancora, fallisce il piano Renzi, questo è il titolo di prima pagina. Poi l'Europa e i migranti, la stampa, Gentiloni, Europa a due velocità, Renzi oggi dalla Merkel prepara la battaglia all'Unione Europea coi suggerimenti di Napolitano, ex Presidente della Repubblica. Per il Corriere della Sera, migranti, espulsioni di massa, i piani di Svezia, Finlandia e Olanda. Libero, l'Europa caccia i clandestini, noi invece ce li teniamo. Anche il manifesto dedica il titolo di prima pagina con una foto di una famiglia di profughi, di migranti. Europa addio, questo è il titolo amaro per il manifesto. Per Avvenire, naufragi e barriere, 20 bimbi morti nell'Egeo e la Svezia espellerà 80.000 migranti. Il Messaggero invece, più tutele per le partite IVA, il governo vara misure per autonomi e fondi per la povertà. È questo che dà spunto all'Unità di titolare in prima pagina Family Day, ma non è ovviamente un invito al Family Day domani contro le unioni civili, ma proprio un elogio al piano del governo, il piano nazionale contro la povertà. Family Day. Il Fatto Quotidiano invece critica la riforma Madia: con il decreto trasparenza tutto sarà un segreto di Stato. Questo è il paradosso per il Fatto Quotidiano. Ma voglio partire dalle statue, dai, che così venerdì chiude la settimana, chiudiamo questa burletta all'italiana. Ancora tanti articoli dedicati alle statue coperte per la visita del presidente iraniano, perfino dalla Francia. Il premier francese Val ci prende per il... ci prende in giro. Incontrando qualche italiano ha detto: ma che è successo con queste statue? I francesi, per esempio, loro nella loro grande laicità non toccano manco il vino, cioè quando arrivano gli iraniani dice non bisogna servire il vino, e la Francia dice no, perché qui in Francia il vino si serve a tavola, e quindi se volete sedervi a un tavolo francese il vino ve lo cuccate sul tavolo, capito? Come fanno i francesi, ma non senza battere i pugni, ma semplicemente dicendo da noi si fa così, tu sei ospite, no? È normale. E invece in Italia no. L'articolo forse più interessante è la ricostruzione di Franco Bechis, vice direttore di Libero, che racconta proprio che cosa può essere successo, detto che Ilva Sapora, questo nome che vi sta entrando in testa, Ilva Sapora, capo del cerimoniale di Palazzo Chigi, additata da tutti come la colpevole, Ilva Sapora, quindi da cacciare, Ilva Sapora, è prossima al pensionamento e quindi, come scrive il Corriere, statue coperte, Sapora ha già le valigie pronte, pensate, già il titolo di pagina 15 con il cognome Sapora, Ilva Sapora. Ha già le valigie pronte e quindi lascerà tra poco. Ma Libero, dicevamo, ricostruisce dicendo le statue in burca forse è stata una vendetta lista della Farnesina nei confronti di Palazzo Chigi, la Farnesina, cioè il Ministero degli Affari Esteri, nei confronti di Palazzo Chigi, cioè del governo. Perché una vendetta? Perché di recente il governo ha nominato il vice ministro Calenda ambasciatore a Bruxelles, cioè non ha scelto tra gli ambasciatori, ha scelto Renzi un suo vice ministro per mandarlo a Bruxelles. E allora Libero dice che tutta la vicenda è stata seguita non dal cerimoniale di Palazzo Chigi, ma tutta la vicenda è stata seguita dal cerimoniale di Stato, il cerimoniale diplomatico della Repubblica Italiana, quindi il cerimoniale del Ministero degli Affari Esteri. Ha seguito con gli iraniani tutta la trattativa sul percorso, eccetera, e molto probabilmente è stato affidato poi nel giorno dell'imbragamento delle statue tutta la gestione a un funzionario del Ministero degli Affari Esteri giovanissimo, non ancora trentenne e con circa un anno di anzianità alla Farnesina. Bekis scrive che questo è proprio stato fatto un incidente voluto, cioè mettere uno inesperto, non in grado di gestire la situazione, per creare un incidente, una sorta di vendetta della Farnesina nei confronti di Palazzo Chigi. Siamo davvero a questo livello, questo secondo Libero. Tra l'altro dice Libero che gli iraniani, quando sono arrivati e hanno visto tutto il percorso, hanno sì creato la problematica delle statue di Venere, ma non hanno suggerito per nulla la ridicola soluzione di questo burka improvvisato, come lo chiama Libero. Vabbè, dai, speriamo che finisca questa vicenda, perché non se ne può più. Passiamo ad altre notizie. Questa mi ha molto incuriosito, è la solita vicenda di polemica, c'è sul Giornale, c'è anche su Libero in prima pagina: uccide un ladro per difendersi, farà la galera e risarcirà i parenti della vittima. Succede a Civedi Correzzola in provincia di Padova, dove Franco Birolo, raccontano il Giornale Libero, è stato condannato a 2 anni e 8 mesi più il pagamento di 325.000 euro di risarcimento per avere ucciso, e quindi eccesso colposo di legittima difesa, un ragazzo moldavo 23enne, tale Igor Ursu, che insieme a un connazionale nella notte tra il 25 e il 26 aprile 2012 aveva sfondato con la macchina la vetrina della tabaccheria del Birolo per rubare un carico di sigarette su una macchina, peraltro anche macchina rubata. Condannato per eccesso di difesa, dovrà anche 325.000 euro ai familiari del bandito, così Libero mette in ampio risalto. Questa invece del Fatto Quotidiano è una brutta storia, davvero una brutta storia. E è una storia di un abuso sessuale nei confronti di un tredicenne compiuto da un sacerdote a Napoli, questo almeno dice questo tredicenne, che poi denuncia, e Ferruccio Sansa lo scrive a pagina 10, un sacerdote abusò di lui, la curia gli offre 250 euro come risarcimento. 250 euro in una busta bianca, tutto quello che la curia di Napoli del Cardinal Sepe mi ha offerto dopo che sono stato abusato da un sacerdote. Ora la denuncia è di questo ragazzo, nel frattempo è diventato un uomo di 39 anni, che ha deciso di cominciare lo sciopero della fame insieme al suo avvocato e a Francesco Zanardi, presidente della rete L'Abuso, che dicono: non mangeremo finché la curia di Napoli non ci darà una risposta, anche perché questo signore, dice il prete che mi ha abusato, continua a insegnare a stare tra i ragazzi. Tra l'altro io andai a trovarlo anni dopo, quando tutte le violenze sono riemerse dal profondo del mio io, dove le avevo cacciate. Sono andato a trovarlo, ho registrato di nascosto ogni parola del sacerdote, le accuse, le risposte dell'insegnante che non nega, non smentisce le violenze. E tra l'altro l'invito poi a non farsi curare dai medici, con il prete che si limita a dire: preghiamo insieme. Alla fine cosa succede? Qualche giorno dopo vanno da mia moglie alcune persone che si presentano a nome del Cardinal Sepe, danno una busta bianca con niente di scritto e dentro 250 euro. Questo ovviamente è il racconto di questo ragazzo: un sacerdote abusò di lui, la curia gli offre 250 euro, è la storia che viene raccontata a pagina 10 dal Fatto Quotidiano. Ma eccoci qui. Questo invece è l'articolo che mi fa un po' sorridere, ma poi ho pensato meglio, ho detto pensare della giornata. L'articolo da Mani sul volante è raccontato dal secolo XIX, è un racconto e uno spaccato di come va l'Italia e la mala giustizia, o meglio la giustizia a volte in Italia. 15 anni di processo per una causa inutile. Una causa importante, tra l'altro, una causa pregnante, una causa che farà giurisprudenza, no, essendo inutile non farà giurisprudenza, una causa imprescindibile. Due tribunali ci hanno messo 15 anni per decidere se l'allungamento di un terrazzo di 22 centimetri fosse o meno lesivo nei confronti di un condomino che ha fatto causa al vicino. Succede tutto a Levanto, dove due pensionati finiscono in tribunale. Dopo 14 anni più altri 18 mesi tra pubblicazione della sentenza e notifica assortite, non si è stabilito se l'allungamento di questi 22 centimetri fosse invasivo o no. Il verdetto dei giudici a valle di perizie, controperizie e pure il temporaneo smarrimento di un fascicolo sarebbe di una semplicità quasi disarmante. Si ritiene che il modestissimo incremento della profondità del terrazzo non abbia in alcun modo comportato un'intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente. L'appello deve essere conseguentemente rigettato con conferma della sentenza impugnata. Com'è possibile che siano trascorsi 5.000 giorni dall'inizio alla fine di questa storia? Ebbene, il secolo XIX la ricostruisce. Perizie, cambi di giudici, fascicoli persi a un certo punto. Il terrazzo. 22 centimetri, sono tanta roba. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, il Pippo dell'informazione. Vabbè, evviva Pippo. Allora, cari ascoltatori, parliamo di immigrazione perché la notizia che fa più scalpore è quella che arriva dalla Svezia. Devo dire che la mia posizione, poi ne parleremo anche con Oscar Giannino, è di nessuno scalpore. Voglio dire, hanno esaminato 80.000 domande. O meglio, ne hanno esaminate molte di più e hanno stabilito che in base alla procedura di richiesta per il diritto a essere considerato profugo, 80.000 persone non hanno diritto a questo accoglimento e quindi la loro domanda è stata bocciata e quindi vengono respinti nei paesi da cui provengono. Cioè non capisco dov'è lo scandalo, dov'è l'espulsione. Non è che è espulsione, uno non è profugo. Leggo addirittura il titolo di Repubblica: espulsi 80.000 profughi. È una contraddizione in termini. Non sono profughi, sarebbero profughi se fosse stata accettata loro la domanda. Non essendo stata accettata la domanda, non sono profughi, sono clandestini e quindi devono essere rispediti al mittente. Comunque, Svezia pronta a espellere 80.000 migranti. Michele Pignatelli lo racconta sul Sole 24 Ore. Mentre il Mar Egeo si continua a morire di immigrazione, l'ultima stretta nei confronti dei rifugiati arriva dall'Europa del Nord. Svezia e Finlandia hanno annunciato a poche ore di distanza che prevedono di espellere fino a 100.000 richiedenti asilo. Proprio appena due giorni fa, ne abbiamo parlato ieri, la Danimarca aveva approvato una riforma del diritto di asilo che autorizza confisca di beni di migranti superiore a 1.350 euro. Comunque tutti a raccontare questa vicenda svedese. La Stampa: la Svezia caccia 80.000 migranti. Abbiamo paura, sono troppi. Domande d'asilo respinte. Il governo annuncia rimpatri di massa. Tra l'altro, per rimpatriare 80.000 persone ci vuole molto tempo. Il premier svedese ha detto quasi anni ci vorranno e ha annunciato addirittura aerei speciali. In tutto questo parla il ministro agli esteri Gentiloni. Lo fa in un'intervista. Sto cercando di abbattere un microfono, è tutto a posto. Lo fa in un'intervista alla Stampa, intervistato da Francesca Schianchi, dice a pagina 2: È giusto discutere di un'Europa a due velocità, anche se non si tratta della definizione migliore, perché opposte visioni devono e possono convivere, ma comunque apre alla possibilità di discutere di Europa a due velocità. Riguardo alla notizia svedese, dice Gentiloni, i rimpatri devono far parte di un'azione comune europea e non di annunci a effetto. E riguardo alla norma danese sul prelievo ai migranti, è qualcosa che sul piano culturale l'Europa non dovrebbe mai vedere, come far pagare l'ICI ai senza tetto. E chiunque conosca la drammaticità di queste rotte fa fatica a capire come possa essere applicata. Mi sembra una norma manifesto, utile più che altro a fini di consenso interno. Dice Gentiloni, non so se rischiamo la fine di Schengen, spero di no, ma non basta la speranza, qualcosa deve cambiare, non possiamo proseguire con le regole di Dublino che scaricano sui paesi di primo arrivo asilo o respingimento dei migranti. Poi dice dell'incontro oggi Renzi-Merkel, una cosa è certa, Italia e Germania sono protagonisti della scena europea, hanno differenze sulle regole economiche ma possono lavorare a una visione comune. E infine sulla vicenda delle statue imbragate con la visita del presidente iraniano, è stata una sciocchezza incomprensibile, liquida così con questa battuta Gentiloni questa vicenda. Comunque in Svezia hanno deciso di rimandare a casa coloro che hanno visto la domanda da profugo respinta. Invece tutti i giornali raccontano questo mistero di ieri a Euro Disney, Parigi, meta di pellegrinaggio, proprio di famiglie, pellegrinaggio laico ovviamente per milioni di famiglie da tutto il mondo e da tutta Europa, e ieri attimi di vero panico, perché a Euro Disney è stato fermato un uomo con armi e anche un Corano nel trolley, nella valigia. Per la verità è tutto un po' misterioso, come racconta Francesca Pierantozzi sul Messaggero a pagina 9. Due pistole, un caricatore, un Corano in valigia dentro a Disneyland Parigi. La polizia ieri continuava a dire che no, non c'è nessun pericolo, è un falso allarme, niente lascia indicare che si tratti di terrorismo, che l'uomo non era schedato, eppure le immagini, le notizie sono state quelle del terrore. L'albergo New York con una camera doppia prenotata da questo signore con una donna, l'albergo che si affaccia sul lago vicino al centro commerciale di Disneyland. Lui ha un trolley, arriva, passa sotto il metal detector e scatta l'allarme. Gli trovano due pistole, oltre che un Corano e due caricatori. Lui però dice, ma no, sono armi che tengo con me per legittima difesa. E continua in maniera tranquilla e impassibile a dire ma che terrorista, non ho niente a che fare col terrorismo. Nel frattempo però la polizia cerca la donna che aveva prenotato la camera con lui e la donna è scomparsa. Fermano quest'uomo, lo portano alla prefettura di Versailles, l'uomo continua a non opporre resistenza, risponde a tutte le domande, dice ma no, ma quale terrorismo? Insomma c'è un giallo. Certo però la paura rimane, torna la paura, uomo fermato a Euro Disney nel bagaglio armi e Corano, vedete come la presenza di un Corano ormai può addirittura essere paragonata, insomma tanto da suscitare allarme, no? Se associata alle armi, a pagina 6 di Repubblica, però mi dicono tutti che l'Islam non c'entra quando mi criticano, due pistole e un Corano in valigia, Disneyland Parigi incubo ISIS, sul secolo XIX addirittura il possesso del Corano diventa l'incubo ISIS, e vedete che insomma questo è benvenuti nell'era ISIS. Per chiudere se volete un po' il cerchio sul fronte immigrazione a tutto tondo, in Italia ieri il presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio all'inaugurazione dell'anno giudiziario ha ribadito quello che da un po' di tempo molti fronti della magistratura dicono, cioè il reato di clandestinità in Italia è inutile, inutile perché inapplicabile, perché non sanzionabile, perché lo abbiamo spiegato anche in una puntata recente. Le udienze avvengono con la persona accusata di reato di clandestinità che neanche si presenta perché non c'è il fermo, non c'è il fermo, l'arresto per questo reato, e quindi la persona, appena gli viene notificato, sparisce, e quindi si porta avanti un'udienza senza l'imputato. Alla fine magari c'è una condanna anche con una sanzione economica a un imputato che non si è mai presentato, è contumace, e vai a trovarlo, e quindi i magistrati fanno notare che tutto ciò produce inutili udienze, spreco di denaro pubblico, e perché questo reato non è applicabile. Dalla Cassazione l'appello al governo, come racconta Giovanni Bianconi, il presidente Canzio dice: togliete il reato di clandestinità, che è assolutamente inutile. Ma eccolo qui, l'uomo meno clandestino di Radio 24, è il nostro Mauro Meazza, oggi al telefono. Dunque è lui. Buongiorno. Senti come lui, vedi. Fratello che... di quello di ieri. Sì, forse, sì, no? Sì, sì, esatto. Come stai? Molto, stai bene? Tutto a posto, io sì. Perché... Hai seguito Telefisco? Certo, rigorosamente. Rigorosamente e soprattutto integralmente. Perché, certo. Tu sai che la manifestazione ha avuto un grosso successo e tra l'altro oggi sul Sole 24 Ore, nelle pagine di Norme e Tributi che tu leggerai come ogni giorno religiosamente, bravissimo, sugli avverbi almeno sei preparato, su queste pagine trovi tutte le risposte che l'Agenzia delle Entrate ha fornito nel corso di Telefisco. Ottimo. Quindi se in qualche momento della manifestazione tu ti fossi distratto, non so, quando si parlava della 730 precompilato, oppure quando si parlava dell'IVIO, dell'IVASE, ti ho visto un po' distratto in quel caso. Non gliel'hai detto precomplicato alla Orlandi, no? Non ho avuto occasione, anche perché sappi che ieri, proprio durante Telefisco, ma lo riferiamo oggi su Sole 24 Ore, è stato detto che si va anche verso la dichiarazione IVA precompilata, senza giochi di parole. Quindi trovi tutti i particolari sulle pagine di Norme e Tributi. Ma bene, è stata una cosa molto importante, hanno partecipato in tantissimi, quindi ne siamo molto contenti. Oggi ne trovi appunto menzione, ampia menzione sulle pagine del Sole 24 Ore. Volevo dirti, ieri tra l'altro è emerso un dato sulla giustizia, tu prima parlavi del reato di clandestinità, c'è un lieve miglioramento per i procedimenti civili, che sai che sono il grosso dell'arretrato, però siamo a 4,5 milioni di cause. Quindi c'è un arretrato ancora, diciamo, impegnativo, vogliamo dire impegnativo, diciamo impegnativo. E poi c'è stato anche un allarme per, diciamo, un momento di preoccupazione, perché ci sono molte denunce per furto che vengono archiviate, cioè insomma vanno a finire in nulla, ecco, il che non è un bel segnale, ma ne parliamo ovviamente anche di questo sulle pagine Sole 24 Ore di oggi, dove apprenderai anche, ieri è stato dato il primo passo normativo per il disegno di legge sul lavoro autonomo. E anche lo smart working, ricordati queste due parole, smart working, che non è il lavoro che facciamo tu e io quando ci parliamo la mattina, ma invece è il lavoro in condizioni particolari, ad esempio da casa, insomma non con la presenza nella sede, la presenza fisica nella sede. Ebbene, sullo smart working, anche sullo smart working interviene questo disegno di legge, vedremo poi che ci sarà in Parlamento. Sei preoccupato per domenica? No, non sono preoccupato, però no. Aspetta, dobbiamo fare, anzi fallo anche tu, associati. Ci scrive un ascoltatore che non si firma, dice: ma che dite, mi fai gli auguri di compleanno che ne faccio oggi 17, sono già 4 anni che mi fai tenere le mani strettissime sul bracciolo, ma è fantastico, sul bracciolo, va bene, augurissimi caro ascoltatore, però 17 anni, che bello, anche da Mauro Meazza. Auguri anche da parte mia, naturalmente, consiglierei subito a questo ascoltatore di consultare il Sole 24 Ore di oggi, così anche sul DDL. Si porta avanti sulle pensioni, pensavo. Vabbè, sulle pensioni, insomma, sono per lui un traguardo ancora lontano, così come per te, Beato. Senti, volevo segnalarti un'altra cosa, tu che leggi sempre i giornali. Ieri è stata data questa notizia, che di cui riferiamo oggi appunto sul Sole 24 Ore, che la finanza ha oscurato 15 siti pirata che piratavano i giornali. Davano gratuitamente i giornali, ma sarebbe il diritto d'autore, capisci? Sì, che è un reatino. Bisognerebbe corrispondere almeno il prezzo della copia. Ecco, questo ci farebbe piacere anche a me e a te, naturalmente, farebbe piacere se i lettori acquisissero la copia pagando qualcosa, così giusto per... Così, giusto perché c'è gente che ci ha lavorato. Per dare un sostegno. Vabbè, siamo al momento del pronostico? Oh mamma signora, ma perché? Vince l'Inter 4-0 questa domenica, non so neanche contro chi giochi, sì, non ti preoccupare. Sì, certo, la gufata al contrario hai fatto, va bene. Allora guarda, io ricambio calorosamente questi auguri, sì. Sarà sicuramente una bellissima partita, ma... Con due squadre veramente di altissimo, sì, che stanno esprimendo un gioco di altissimo livello, mi viene da dire. E non so, anche io devo dire, io non riesco a dire che vince Alessandro 4-0, però vabbè, la dico così. Ma, no, speriamo naturalmente che il tuo pronostico non sia vero. Tutto ciò premesso, buona domenica a tutti, un po' meno a te, caro Alessandro, per la parte serale, ma soprattutto anche per oggi. Traffico! Alessandro Milan, il Christian Grey dell'informazione. E vabbè. E allora, cari ascoltatori, le 7:49 minuti. Siamo qui, c'è anche il rimpastone di governo, eccolo là, era annunciato da tempo ed è arrivato il rimpasto di Renzi che premia il nuovo centrodestra. È stato promosso al Ministero degli Affari Regionali l'ex vice ministro della Giustizia Costa e poi è stato promosso Tommaso Nannicini, che era consulente economico di Renzi, diventa sottosegretario presso la Presidenza del Consiglio. Poi la Giustizia 2, uno del nuovo centrodestra, la senatrice Chiavaroli e Gennaro Migliore del PD. Il senatore Antonio Gentile del nuovo centrodestra, che era stato estromesso per un'inchiesta, poi è stato tutto chiarito, viene e torna sottosegretario allo sviluppo economico. Promozioni, spostamenti, poltrone, rimpastoni. Quando si tratta di queste cose in politica c'è sempre una poltrona. Vabbè, lasciamo la politica, no, solo dopo aver detto che sul Corriere della Sera e su Repubblica c'è un'intervista a Patrizia Bedori. Chi è? È la candidata del Movimento 5 Stelle al Comune di Milano. Perché c'erano chiacchiere nei giorni scorsi sul fatto che questa candidata che aveva vinto le primarie del Movimento 5 Stelle non fosse gradita però ai vertici a Casaleggio, giusto per dirlo chiaro. E allora Casaleggio l'ha anche convocata, ma ora lei fa un'intervista a dire: non è vero che mi ha chiesto un passo indietro, nessuno me l'ha chiesto. Se però voi sapete di più, a me Casaleggio non ha chiesto alcun passo indietro, dice Patrizia Bedori, intervistata da Giampiero Rossi sul Corriere della Sera. È una voce rimbalzata da Roma, ma a me risulta che Di Battista abbia escluso di aver sollevato la questione. E dunque dice: rimango candidata a sindaco di Milano, stiamo mettendo a punto il programma proprio in queste ore. Ambiente, mobilità, sicurezza, partendo dalla nostra credibilità, questi punti fermi. Dunque, pare finita la questione della possibile sostituzione del candidato del Movimento 5 Stelle a Milano. Domani c'è il Family Day, che ovviamente verrà un po' paragonato, con risposta anche di numeri alle piazze che settimana scorsa invece hanno chiesto il sì alla legge sulle unioni civili. Il Family Day invece si oppone alla legge sulle unioni civili. Viene intervistato Massimo Gandolfini su Repubblica, lui è il portavoce del Family Day e dice: la legge Cirinnà dichiara di essere consapevole che non ci vuole l'equiparazione col matrimonio, ma lo dimentica un minuto dopo, vengono date all'unione civile tutte le caratteristiche del matrimonio. Lei ha 7 figli, tutti adottati, perché Gandolfini dice addirittura c'è il diritto di adozione con la stepchild adoption. E allora Repubblica chiede con Giovanna Casadio: lei ha 7 figli, tutti adottati, pensa che l'adozione possa essere recintata alle sole coppie eterosessuali? Certo, risponde Gandolfini. I figli adottati vedono garantito nell'adozione il loro diritto ad avere un padre e una madre. Ma se entrano in una situazione di omogenitorialità, mancherà loro un genitore. Sono programmati orfani e questo è aggiungere danno al danno. Per lei l'omosessualità è una malattia? No, risponde Gandolfini, ma in alcuni il comportamento omosessuale è fonte di disturbi della personalità. Così Gandolfini, bresciano, 64 anni, 7 figli adottati, portavoce del Family Day, intervistato da Repubblica, pagina 19. Vi segnalo questa pagina di Paolo Granzotto sul Giornale, inizia in prima pagina e poi continua a pagina 16, sul voto di condotta. C'è una proposta di legge che ora arriva in Parlamento per la firma dell'onorevole Milena Santerini, una tossica proposta di legge, la definisce per la verità Paolo Granzotto sul Giornale, e cioè abolire il voto in condotta, depenalizzarlo e impedire così le bocciature per il voto in condotta. È l'ultimo colpo alla disciplina per il Giornale. Oggi l'insufficienza comporta la perdita dell'anno scolastico, ma una deputata chiede che la priorità diventi la rieducazione. E dunque il Giornale critica molto questa decisione perché dice così si perde il senso di una scuola che educhi ma anche duramente, e passa l'idea di una scuola buonista con questa proposta di legge in Parlamento. Va bene, ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Eccole qui le Barbie, no, mi toccheranno anche queste con mia figlia. Arrivano le nuove Barbie, la spilungona, la formosa, la bassina. Basta, non si potrà neanche dire, guarda che figa questa, sembra proprio una Barbie. No, perché adesso c'è la Barbie un po' curvy, un po' tall, un po' small, un po' tap. Le Barbie. Vabbè. Ma chi se ne frega!